nero come il velo sulle lacrime in due, nero grigio nero che non sfuma nel blu. Vero oro vero e mille servi in TV, e come mi chiedo sia iniziato qua giù. E sono lacrime che ora scendono giù dove cammini tu. Dove vuoi tu, dove abiti tu? E serio sono serio e non parlatemi più. No, non ho capito e non capirò più. Chiedo a volte, chiedo, ma non lo fare tu. Dammi una mano a rifiutare il menù. E sono lacrime che ora scendono giù dove cammini tu. E forze grandine che batte dove vuoi tu, dove abiti tu. Odio il vero e tutto il vostro surplus. Vedo e vado avanti ma non toccarmi più. Vero ora vedo solo il lato tabù. Un nero miscuglio ma niente di più. Lacrime che ora scendono giù dove cammini tu. E forze grandine che batte dove vuoi tu, dove abiti tu. E sono lacrime, lacrime, lacrime, e sono lacrime, lacrime, lacrime, e sono lacrime, lacrime, lacrime, e sono lacrime, lacrime, lacrime.